volta ti ho perduto e ti ho lasciato per un niente. Decisione nata dalla fretta e col cervello di un adolescente. Non serve mascherare col presente quello che si sente. Non lo provi, sai, mi manchi, sono perso tra gli sguardi della gente. A quella prima volta abbiamo perso il cuore sul mio letto. Non ho più sogni nel cassetto, non sai quanto fa male lasciarti andare la vigilia di Natale. Il gelo mi scorreva nelle vene, l'atmosfera mi pareva quasi surreale. Bella come un'alba boreale, arcobaleno di pensieri che non so spiegare. Tocca a me parlare, adesso ferma lì, stammi ad ascoltare. Vorrei farti sapere quanto sei speciale, non è normale. La voglia di vederti che mi preme, solo noi insieme ai nostri sogni. Con la voglia di star bene, senza false scene, come quella volta lì alla ghetto. Ho letto il tuo perdono sulla carta, lacrimavano i tuoi occhi come gocce di rugiada. Immagini il dolore, da quella sera di dicembre. Io non credo più all'amore, adesso sai che ti sento e sei già lontano. L'emozione in quella sera che pioveva, pensavo al mio futuro mentre il nostro amore si spegneva. Vorrei sfiorare le tue labbra un'altra volta, sentire la tua pelle. Vorrei averti qui vicino e dare poi la svolta, tenere qui al mio fianco la fiammita damigella. Come trovare una pepita nella terra dove è cresciuta quella rosa ormai appassita. Un paio d'anni che è finita, adesso spogli i petali di questa margherita. Ora le spiagge sono deserte e sale su ferite aperte. Pensare a noi sotto le coperte, del tuo profumo sento il suono. Sei come un tuono, come un lampo al ciel sereno. Sei aria profumata in questo mondo di veleno, un vento di passione. E adesso dimmi chi il tuo cuore se lo tiene stretto. Ho sbagliato, solo adesso io lo ammetto. Ti sento qui vicino e la tua voce psichedelica. Passa, tu sei un angelo, questa è la mia dedica. Tutto qui, tutto qui. Ho sbagliato io, e questo peso cos'è? Adesso pago il mio prezzo, la mancanza di te. Ho sbagliato io, e questo peso cos'è? E adesso pago il mio prezzo, la mancanza di te.